Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il poeta indiano Rabindranath Tagore ha scritto: la farfalla non conta gli anni, ma gli istanti. Per questo il suo breve tempo le basta. La nostra storia di oggi racconta proprio il breve ma intenso tempo vissuto da un meraviglioso atleta aggraziato, leggero, ma soprattutto libero, proprio come una farfalla. Il 3 maggio del 1964 a Bari si gioca una partita di Serie A. Una partita di classifica medio-bassa, una di quelle che non fa notizia, che non riempie le prime pagine dei giornali. Bari-Genoa. Il Bari è ultimo e lotta disperatamente per non retrocedere. I Liguri, allenati da Benjamin Santos, navigano a metà classifica. A 10 minuti dalla fine, la partita è sull'1-1. Al gol del barese Galletti ha risposto il centravanti genoano Gastone Bean. L'ala destra del Genoa, un giocatore smilzo, rapido, con una passione smodata per il dribbling e la maglia numero 9 sulle spalle, prende palla sulla linea di metà campo e parte, solo. Gli avversari vengono saltati come birilli, come paletti di uno slalom. È una discesa folle e testarda. Potrebbe passare la palla più volte, ma non lo fa. Potrebbe tirare, ma non lo fa. Il numero 9 del Genoa dribbla tutti e va in porta col pallone, tra lo stupore dei tifosi sugli spalti. Un gol che rivisto ancora oggi fa impressione. Uno dei gol più belli mai realizzati da Gigi Meroni. Gigi Meroni. Gigi Meroni è una leggenda del calcio italiano. Un talento straordinario, ma anche una personalità eccentrica e poliedrica, in grado di stregare i tifosi e di affascinare l'opinione pubblica. Anticonformista, estroso, fuori dagli schemi, era soprannominato la farfalla per la leggerezza del suo calcio e del suo spirito. Il suo volo inizia a Como, anno 1943. 1943 vuol dire guerra, ma la bella cittadina di Como rimane ai margini del conflitto mondiale, quasi totalmente risparmiata dai bombardamenti. I suoi abitanti riescono a condurre una vita quasi normale. A Como vive e lavora la famiglia Meroni, una famiglia operaia come tante. Hanno un figlio che si chiama Celestino. Il 24 febbraio di quell'anno nasce il secondo. Lo chiamano Luigino. Poco meno di 2 anni e la famiglia Meroni accoglie un terzo figlio, anzi una figlia, la piccola Maria. Poco dopo la nascita della bimba, però, la sorte gioca loro un brutto tiro. Il padre muore improvvisamente, lasciando la moglie Rosa con il problema enorme di dover mantenere i 3 pargoli. Rosa lavora per un'industria tessile. Non appena i figli iniziano ad essere un po' più grandi, la mamma li coinvolge nella sua attività lavorativa, chiedendo loro una mano. L'infanzia senza un padre, per Gigi Meroni, è tutt'altro che una passeggiata. All'inizio degli anni 50 in Italia il boom economico sembra ancora lontano, mentre la ricostruzione post-bellica fa ancora sentire tutta la sua pesantezza. Gigi impara prestissimo a fare i conti con le asperità della vita e cerca di apprendere anche i rudimenti di un mestiere. Inizia a fare il disegnatore tessile, cosa che peraltro gli riesce anche piuttosto bene. Forse sarebbe anche diventata la sua professione, non fosse stato per quell'irresistibile pallone e per quel campetto nel quartiere San Bartolomeo. In uno dei quartieri più tranquilli di Como ci sono 2 luoghi fondamentali per la genesi del talento di Gigi Meroni. Il primo è il piccolo cortile dove abita Giampiero della Torre, amico di infanzia di Meroni. Questo è il famoso cortiletto dei primi calci. Qui siamo diventati grandi assieme, qui uno doveva imparare o se no prendeva solo calci. Perché in questo posto eravamo 5 fino a 5 contro 5. Questa è una porta e l'altra porta dove entra quel giovanotto lì adesso, che anche lui era della combricola, anche questo giovanotto. La seconda porta. Gigi, dato grande qui, col fratello Celestino, bravissimi tutti e due. Il secondo è il campo polveroso della parrocchia di quartiere, intorno alla chiesa di San Bartolomeo. Qui gioca le sue partite la squadra patronale, la Libertas San Bartolomeo, e qui si cementa il rapporto con i suoi tanti amici e compagni di scorribande, cui rimarrà legato per sempre. In quegli anni le grandi squadre hanno una rete di osservatori che alla ricerca di nuovi talenti non trascura nulla, nemmeno gli spelacchiati campetti di periferia. Così Gigi, come ricorda la sorella Maria, attira l'attenzione niente meno che dell'Inter, la squadra di cui peraltro da bambino è tifoso. Lui giocava all'oratorio a San Bartolomeo e poi l'avevano chiesto appunto all'Inter e era andato a fare il provino, diciamo. Praticamente l'avevano espresso. È venuto qualcuno qui per firmare il contratto. Mia mamma assolutamente non voleva che lui andasse a Milano da solo due volte a settimana col treno, così, e quindi lei gli ha strappato il cartellino. E per fortuna... Per fortuna, perso il treno nerazzurro, Meroni riesce a trovare un'alternativa che faccia stare tranquilla mamma Rosa e gli permetta di continuare a inseguire il suo sogno calcistico. Nel 1960, infatti, quando ha 16 anni, firma per le giovanili del Como e così può continuare ad aiutare la madre nel suo lavoro. Nelle giovanili del team lariano, Meroni inizia anche ad essere pagato e in questo modo, come ricorda lui stesso in un'intervista d'epoca, può cominciare a mettere da parte qualcosa. Che mestiere ha fatto prima di fare il calciatore? Guardi, ho fatto disegnatore schizzista per foulard, disegni tessili per donne. Quindi guadagnava abbastanza? No, pochissimo guadagnavo. Guadagnavo pochissimo perché ero ancora apprendista, dovevo ancora imparare. Ho guadagnato qualcosina dopo quando giocavo e lavoravo allo stesso tempo. Gigi Meroni nel Como inizia a maturare come giocatore. Il suo ruolo è quello dell'ala, anche se tatticamente tendente a una felice anarchia. Gigi svaria su tutto il fronte dell'attacco. Ha nel dribbling funambolico, imprevedibile, il suo colpo migliore. Ma sa tirare, andare in gol, crossare. Per molti aspetti ricorda Omar Sivori. Quando non ha ancora 18 anni, il Genoa decide di acquistarlo. Mamma Rosa si è ormai rassegnata a vedergli fare il calciatore professionista. Gigi approda sotto la lanterna. Ed ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randagi ci sentiamo noi. Ma Gaia, scimmia di luce e di follia, Moschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armati. All'inizio degli anni 60, Genova è una delle città intellettualmente più vive d'Italia. Qui la passione per il beat e la voglia di ribellione dei giovani sono in piena ebollizione, tanto da farne una sorta di fucina del 68. Attorno ai luoghi di culto, come la Galleria del Deposito, nascono gruppi di artisti d'avanguardia che sperimentano e rompono gli schemi. Genova, tuttavia, si lega soprattutto a quel gruppo di cantautori nati o cresciuti qui, che negli anni 60 muove i primi passi. Sono i cantautori della scuola genovese, etichetta che accomuna personaggi come Fabrizio De André, Gino Paoli, Luigi Tenco, Umberto Bindi, Bruno Lauzi. Le loro canzoni propongono contenuti di rottura rispetto ai tempi, controcorrente, dando voce a quel turbamento interiore giovanile che condurrà anni dopo alla contestazione. Meroni non è uomo istruito, nel senso tradizionale del termine, ma è un uomo intelligente, curioso, sensibile. Pertanto, da autodidatta, si costruisce una sensibilità culturale di gran lunga superiore a quella dei suoi colleghi calciatori. E il contesto beatnik genovese lo scuote nel profondo. Calcisticamente parlando, Gigi esordisce nel Genoa in una gara di Coppa Italia, Genoa-Udinese del 10 settembre 1962, andando subito in rete. L'esordio in campionato arriva qualche mese dopo. Il primo gol nel maggio del 1963, a fine stagione, contro il Lanerossi Vicenza. Meroni gioca una grandissima partita e i giornali il giorno dopo lo celebrano come un astro nascente. Accanto alle sue doti calcistiche, però, a destare l'attenzione dei giornalisti è anche il suo aspetto. Capello lungo alla Beatles, talvolta la barba lunga, altre volte i baffi. Un look inusuale all'epoca per un calciatore. Così come inusuali sono le sue abitudini di vita nella città genovese. Meroni, influenzato dal fermento culturale della città, inizia a dipingere, a frequentare amici artisti, a vestire con abiti alla moda e stravaganti. Il Genoa è da poco tornato in Serie A, ma ha il pubblico esigente e caloroso di una squadra titolata e importante. I genoani si stringono intorno a Gigi Meroni, eleggendolo loro nuovo idolo. Lo fermano per strada, lo cercano, lo amano. In una città traboccante di giovani artisti, Meroni è considerato da tutti il vero e grande artista del pallone. La vita genovese di Meroni, inoltre, è impreziosita dall'inizio di un'autentica favola, romantica ed emozionante. Giunto da poco nella città ligure, l'attaccante comasco, una sera, conosce una ragazza di origini polacche, bionda, bellissima. Si chiama Cristiana. In un bar bruno, dove andavano tutti i calciatori. E lui giocava nel Genoa. Ma lui era seduto in una sedia tranquillo a mangiarsi la sua cioccolata. Era una persona tranquilla, col suo cappellino sulla testa. Così, ciao ciao, poi abbiamo cominciato a chiacchierare, poi sono stato a trovare mio zio, lui è venuto giù a fare un giro, l'ho visto, e abbiamo parlato, ma così. Cristiana ha 17 anni, è figlia di giostrai e lavora con i genitori al tirassegno di un Luna Park che si trova in quel momento a Genova. I suoi genitori poco tempo prima avevano affittato il tirassegno dalla truppa di La Riffa, episodio diretto da Vittorio De Sica del film Boccaccio 70. Bravo, bravo tutte le castagnole. L'aiuto regista di quel film si era innamorato di Cristiana e l'aveva chiesta in sposa ai genitori che gliel'avevano promessa nella speranza di migliorare lo status sociale della ragazza. Poi però Cristiana incontra Gigi Meroni in quel bar di Genova e se ne innamora. Non c'è però niente da fare. I genitori hanno deciso per il matrimonio e nulla pare smuoverli da questa decisione, nonostante la ragazza abbia iniziato a frequentare Gigi. La leggenda vuole che il giorno del matrimonio Meroni fosse andato in chiesa a Roma, che fosse nascosto in un confessionale, che non abbia però trovato la forza di gridare al momento della promessa degli sposi, soffocato dalle lacrime di disperazione. Cristiana però non lo dimentica. Dopo qualche mese fuggirà dal suo matrimonio, correrà da Gigi. Insieme decideranno di intraprendere un percorso difficile e complesso, chiedere alla Sacra Rota l'annullamento del matrimonio. La relazione tra Gigi e Cristiana, autentica, folle e fuori dagli schemi, desta scandalo tra i ben pensanti. Lui ha detto a Santo, io non voglio andare in nazionale perché Cristiana sta poco, poi parte. Perciò io poi viaggiavo perché ero nella moda, così perciò viaggiavo. E allora dice, se io salvo il Genoa, faccio, non so se servivano due o tre gol, due gol dalla Serie B, però se posso fare questi due gol e mi butto per terra, lei mi fa ingessare una gamba, io non vado in nazionale. E tanto gli ha detto sì, e così ha fatto. Nothing she doesn't see, she knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, yes, I want you so bad. Oh honey, I want you. La stagione 1962-1963, la prima di Meroni nel capoluogo ligure, vede anche un'altra grande del calcio italiano tentare, proprio come i rossoblù, il rientro ai piani alti della Serie A. Si tratta del Torino. I Granata, dopo la spaventosa tragedia di Superga del 4 maggio 1949, che aveva posto brutalmente fine al mito del grande toro, non erano più riusciti a costruire una squadra in grado di stare al vertice del calcio italiano. Addirittura, nel 1959, il Torino aveva conosciuto l'amarezza della retrocessione, anche se solo per un anno. Uno dei motivi di queste vicissitudini sportive è indubbiamente l'instabilità societaria. Un'instabilità che sembra concludersi proprio nel 1962. Infatti, mentre a poche decine di chilometri dalla Mole, Gigi Meroni macina gol con la maglia rosso-blu del Genoa, alla guida del Torino giunge un industriale ambizioso che ha in testa un unico grande obiettivo: restituire al Toro la grandezza che gli compete. Si tratta del nostro secondo personaggio di oggi, Orfeo Pianelli. Orfeo Pianelli. Orfeo Pianelli è un imprenditore lombardo coraggioso e intraprendente. Nasce nei pressi di Borgoforte, vicino a Mantova, nel 1920. Dopo aver svolto da giovanissimo diversi lavori nel settore agricolo, quando ha solo 16 anni, decide di abbandonare la sua famiglia e di recarsi a Torino, a cercare fortuna. Torino, a metà degli anni 30, è una delle città più evolute sul piano industriale. È già il tempio della Fiat, il regno della famiglia Agnelli. Pianelli osserva la loro forza industriale e sogna un giorno di poterli sfidare sul loro stesso terreno. A Torino, inizialmente, Pianelli è costretto ad arrangiarsi e a vivere svolgendo lavoretti minori. Intanto però si iscrive alle scuole serali, studia da perito elettrotecnico. Ha una determinazione straordinaria. Studia e lavora con uguale energia, stimolato dalla vivacità del capoluogo piemontese. Negli anni 30 ha uno dei luoghi intellettualmente più caldi d'Italia. Ottenuto il diploma, Pianelli lavora per un po' di tempo come elettricista apprendista, per poi mettersi in proprio e creare infine la sua azienda, la Pianelli e Traversa, una scommessa fatta nell'immediato dopoguerra insieme al suo amico Domenico Traversa, un'avventura imprenditoriale rischiosa e affascinante, condotta da un uomo che davvero si è fatto da solo. Pianelli è anche un grande appassionato di sport. Amante dei motori e desideroso di cimentarsi in prima persona al volante di macchine potenti, appena ne ha la possibilità economica, riesce a partecipare a due edizioni della Mille Miglia, classificandosi quindicesimo, e a due rally del Sestriere, giungendo settimo. L'altra sua grande passione, però, è il calcio. Torino è calcisticamente all'avanguardia anche nel calcio. La permanenza di Pianelli nella città della Mole lo spinge progressivamente verso le squadre di calcio torinesi, il Torino e la Juventus. Le travagliate vicende societarie seguite al disastro di Superga, le casse sociali sempre più in affanno, il triste interregno del presidente Angelo Filippone fanno drizzare le antenne all'emergente industriale. Forse la sfida cittadina agli Agnelli e alla Fiat, di cui nel frattempo l'azienda di Pianelli è diventata fornitore, potrebbe passare attraverso il calcio. Così, dopo mesi di ripensamenti e una serrata trattativa, dopo un anno di partecipazione alla finanziaria che controlla il club, nel febbraio del 1963 Orfeo Pianelli diventa presidente del Torino. Queste le prime telegrafiche dichiarazioni di Pianelli da presidente del Torino. Dopo le parole, i fatti. Il primo colpo è l'allenatore. Per la stagione 1963-1964 viene strappato al Milan niente meno che Nereo Rocco, è il Paron. Il primo calciatore di nome acquistato è Claudio Sala, strappato al Napoli per una cifra considerevole, nonostante provenisse da un periodo non brillante. Nell'estate del 1964 Pianelli decide che è tempo di dare al Torino un campione vero, uno che possa far compiere ai Granata il vero salto di qualità. È così che il Torino si lancia proprio sull'acquisto di Gigi Meroni. Nonostante il costo pazzesco per l'epoca, per un giocatore di soli 20 anni, ben 300 milioni, e nonostante l'asta con la Juventus, Pianelli insiste, guidato da una sorta di sesto senso che gli impone di acquistare la talentuosa ala del Genoa ad ogni costo. Pianelli porterà a Torino un campione, Meroni troverà la sua consacrazione e anche quella figura paterna troppo presto venuta a mancare. Destini incrociati. Orfeo Pianelli, presidente del Torino dal 1963, è uno dei primi manager moderni a entrare nel mondo del calcio. L'idea di acquistare la squadra granata nasce in lui soprattutto per il fascino irresistibile del Grande Toro, un mito tragicamente segnato dallo spaventoso incidente di Superga del 1949. Pianelli vede come una sfida l'idea di riportare il club ai livelli degli anni 40. Accanto a questi motivi, per così dire, romantici, ve ne sono altri, ovviamente legati a precise ragioni di business. E coniugando il romanticismo e il marketing, che nel 1964 Pianelli decide di acquistare ad ogni costo per il suo Torino Gigi Meroni, geniale e stravagante alla destra del Genoa. 300 milioni di lire. Mai nessun giocatore di 20 anni era costato tanto. Meroni, per il quale anche la Juventus aveva dimostrato interessamento, si presenta subito con una frase ad effetto che fa impazzire i tifosi granata. Per fortuna sono finito dalla parte giusta di Torino. Il Torino è l'ambiente giusto per fare esplodere Gigi Meroni. L'allenatore è il grande Nereo Rocco, che ne intuisce subito il genio. Anche i suoi compagni comprendono immediatamente di avere in squadra un campione e sin dalle prime uscite in campo si affidano a lui, mentre fuori dal campo lo proteggono per i suoi atteggiamenti decisamente eccentrici per l'epoca. Il feeling più grande però Meroni lo instaura con il presidente, Orfeo Pianelli. Meroni ha perso il padre all'età di 2 anni. Ha dovuto imparare alla svelta a badare a se stesso. La vita non gli ha mai fatto sconti. Pianelli comprende la fragilità dell'asso che ha appena portato nella sua squadra e crea con lui un rapporto particolare che ben presto diventa quasi un legame tra padre e figlio. Il presidente lo comprende, lo asseconda. Quando è il caso lo rimprovera. Soprattutto però lo protegge dalla stampa che, impietosa, non gli perdona nessuna delle sue eccentricità. Cosa ne fa dei soldi? Li spendo. Non ha un piccolo risparmio? Sì, qualcosa, ma mi piace spendervi i soldi. Li faccio girare, capisci? Money can buy me love. Oltre all'ingaggio, Pianelli mette a disposizione di Meroni un appartamento borghese molto lussuoso in pieno centro, nel tentativo di fargli mettere la testa a posto. Meroni però ci rinuncia di buon grado, sceglie di abitare in una mansarda in Piazza Vittorio, uno degli angoli magici del capoluogo piemontese, e di convivere lì con la sua Cristiana, la splendida fidanzata polacca appena uscita da un precedente matrimonio e in attesa di annullamento dalla Sacra Rota. Una scelta di vita che gli attira i giudizi dei tanti italici ben pensanti degli anni 60. In questo locus amenus, a vista su una delle più belle piazze di Torino, Meroni dipinge quadri. E lo fa anche piuttosto bene, tanto da ricevere gli apprezzamenti di grandi pittori come Guttuso e Cagli. Meroni comincia i suoi quadri la domenica sera, dopo la partita, quando Cristiana dorme e spesso sta sveglio tutta la notte davanti al cavalletto. Oltre a questa inedita figura di giocatore artista, ricopre anche il ruolo di stilista. Disegna da solo i suoi abiti, pantaloni a zampa, colori improbabili, disegni psichedelici, per realizzare i quali acquista personalmente le stoffe e se li fa realizzare da un sarto, Pino Trecase. Come vede, appunto, c'è qui un pantalone di una stoffa che non dovrebbe essere da pantalone, perché se loro vedono un pantalone per sotto un tight. Però il Fiomeroni ha voluto il pantalone e verrà fatto un po' estroso. Perché si veste così, Meroni? Come così? Sì. Si traveste. Normale, no? Normale? Per me è normale. Pianelli rintuzza i colpi che la stampa, dando voce a una parte dell'opinione pubblica, sferra ai comportamenti di Meroni. Il giocatore, dal canto suo, ripaga il presidente e i tifosi granata con le prime giocate incredibili che fanno innamorare Torino. La città lo adotta subito, gli si stringe attorno. Per la capigliatura e gli atteggiamenti che ricordano il grande George Best, viene definito il quinto Beatles. Il Torino, trascinato da Gigi Meroni, torna ai vertici del calcio italiano. I granata nella stagione 1964-1965 in campionato giungono terzi, un risultato straordinario. Non è tutto. Per la prima volta il Toro partecipa alla Coppa delle Coppe. Trascinato da Meroni, giunge fino alle semifinali, dove viene sconfitto solo allo spareggio dai tedeschi del Monaco 1860. Meroni segna 5 gol in campionato, uno più bello dell'altro, e 3 in Europa. I primi gol in maglia granata sono datati 27 dicembre 1964 in Torino-Cagliari, 4-0. Funambolico e travolgente, Gigi è però un giocatore dalla difficile collocazione tattica. Parte da ala destra, ma è fisiologicamente portato a svariare lungo tutto il fronte dell'attacco, a seguire ciò che l'istinto gli suggerisce. Nereo Rocco, allenatore del Torino, glielo permette. Il discorso si complica quando Gigi viene convocato in nazionale. Ma guardi, i giocatori si svegliano con la marcia sul fiume Quai. Questa è un po' una tradizione di Coverciano. Ogni tanto però devo dire che c'è una marcia dei bersaglieri che viene messa subito dopo. Sono parole di Edmondo Fabbri, il CT della nazionale azzurra di quegli anni. Come si intuisce, si tratta di un uomo autoritario che gestisce la nazionale come fosse un reggimento militare, regole ferree e disciplina. I giocatori devono trasmettere l'immagine di ordine, barba fatta, capelli corti, maglia dentro i pantaloncini, calzettoni alzati sotto al ginocchio. Scontato dire che questo approccio militaresco alla gestione della squadra sia destinato a entrare in rotta di collisione con la personalità di Luigi Meroni. Troviamo un po' diverso come aspetto dal solito, cos'è successo? Mi hanno fatto tagliare i capelli, come vede. È stato Fabbri? No, è stato Fabbri, mi ha chiesto se potevo tagliarli, che faceva piacere. Sì. Alla prima convocazione in Nazionale B, Meroni ubbidisce e si taglia i capelli. Per la verità, un aneddoto racconta che sarebbe stato il compagno di squadra e amico Natalino Fossati a tagliarglieli la notte prima che Meroni raggiungesse Coverciano. Gigi viene poi impiegato in Nazionale come ala sinistra, con compiti tattici ben precisi. Il suo genio ne risulta inevitabilmente soffocato. Negli anni successivi il suo rapporto con la nazionale e con Fabbri sarà sempre tormentato e burrascoso, fino al Mondiale del 1966. Qui Meroni, che ormai è un personaggio sulla breccia, si presenta alla partenza per l'Inghilterra con capelli lunghi e i baffi. Fabbri lo porta al Mondiale, ma gli pone un out-out. O ti tagli i capelli o stai in panchina, come ricorda la fidanzata Cristiana. Sì, perché tutti avevano dei capelli corti e lui aveva questi capelli lunghi e ha cominciato a dire: guarda, qui c'è la maglia della nazionale. E lì c'è il parrucchiere, se ti tagli i capelli giochi. E lui dice: ma non esiste, io non gioco coi capelli. Insomma, non esiste che tu mi dici devi tagliarti i capelli se non giochi. O gioco o lo gioco. E così dice: no, non me li taglio. Neroni va al mondiale, segna due reti nelle amichevoli di preparazione. All'esordio contro il Cile sta in panchina. Gioca poi all'esordio contro l'Unione Sovietica, il secondo match del girone dell'Italia, a Sunderland. Neroni. Neroni, da Mastola. L'Italia perde 1-0 per via del gol di Igor Cislenko al 57esimo. Nella partita decisiva contro la Corea, in quella che dovrebbe essere una formalità ma si rivelerà l'inferno, Gigi rimane in panchina. Come è andata lo sappiamo tutti. Pak Duik giustizia agli azzurri e sgretola la carriera in nazionale di Edmondo Fabbri. Poi siamo qui. Poi... L'Italia rientra in aereo tra le contestazioni dei tifosi. Succede qualcosa di strano. Oltre alle inevitabili polemiche nei confronti di Fabbri, uno dei bersagli prediletti della stampa e di alcuni tifosi che accolgono gli azzurri all'aeroporto è proprio Meroni. Un episodio incomprensibile che desta più di un sospetto di una regia occulta dietro alle proteste dei tifosi. A Torino però Meroni continua ad essere un idolo. Una delle stravaganze che più incuriosisce il presidente Pianelli riguarda l'animale da compagnia che Meroni sceglie di tenere con sé nella sua mansarda, una gallina. Non è raro veder passeggiare il ragazzo per le vie di Torino con la gallina al guinzaglio. Pianelli però lo protegge sempre e comunque. A San Siro, nella sua seconda stagione in maglia granata, Gigi, davanti agli occhi increduli del suo presidente, giustizia la grande Inter di Elenio Herrera con uno straordinario gol su pallonetto. Nella stagione 1964-1965 il Toro è solo decimo in campionato, nonostante a tratti giochi un grande calcio. L'anno dopo è quarto, con Meroni capocannoniere dei Granata con 9 reti. Gigi ha raggiunto la maturità come calciatore e come uomo. Cristiana ha finalmente ottenuto l'annullamento del matrimonio e lui la vuole sposare. Sembra insomma che per Gigi Meroni, anche grazie all'aiuto e al calore di Orfeo Pianelli, la vita stia prendendo una piega serena e appagante. Quell'estate, quella del 1967, alla vigilia della quarta stagione di Meroni in maglia a granata, accade un episodio straordinario per il calcio di allora. L'avvocato Agnelli si presenta con un'offerta irrinunciabile da Pianelli per Meroni. Lo vuole alla Juventus. Davanti a una cifra del genere, la sua cessione sembra cosa fatta. Ma le voci trapelano prima del tempo. Scendono in piazza i tifosi del Toro e minacciano una mezza rivoluzione. Proteste feroci sotto la casa di Agnelli, proteste ancora più feroci sotto quella di Pianelli, combattuto tra il cuore e la ragione. Quella cessione viene vista dai tifosi come un atto di prepotenza dei più forti sui più deboli. La contestazione dilaga. Si viene a sapere che alla catena di montaggio Fiat gli operai che tifano Toro starebbero boicottando la Fiat 128. Davanti a un'opposizione così forte, Pianelli rompe gli indugi e decide di rinunciare alla cifra astronomica offerta dall'avvocato. Meroni non si cede. I sentimenti, dopo tutto, non hanno prezzo. Destini incrociati. Gigi Meroni, alla destra del Torino a metà degli anni 60, ama indossare la maglia numero 7. È la maglia che, secondo la vecchia e ormai scomparsa tradizione dei numeri, definiva proprio l'ala destra classica. Chi gioca in quel ruolo sta ai margini, vicino ai bordi del campo, una posizione di confine che per Gigi Meroni è molto rappresentativa del suo modo di intendere la vita. Sempre fuori dagli schemi, lontano dalle convenzioni, inseguendo l'estro e la fantasia, gli ingredienti dei dribbling che ama fare su quella fascia destra. Il 15 ottobre 1967, allo stadio comunale di Torino, contro la Sampdoria, Meroni fa decine, centinaia di funambolici dribbling. La maggior parte di essi, quel giorno, gli riesce. Il Torino vince 4-2 e si afferma come possibile pretendente per il titolo. Sulla panchina granata Orfeo Pianelli, l'uomo che ha voluto Meroni al Torino e che ne è diventato una sorta di secondo padre, ha messo in sostituzione del partente Nereo Rocco Edmondo Fabbri, ex CT della Nazionale che con Meroni ha sempre avuto un rapporto a dir poco pessimo. Il presidente è molto chiaro nei confronti del suo nuovo allenatore. Meroni, sul piano professionale, è impeccabile, tra i più seri atleti della squadra. I suoi atteggiamenti fuori dal campo non contano. Così Fabbri e Meroni trovano il modo di andare d'accordo e di remare nella stessa direzione. L'ex CT della Nazionale istituisce una regola. Dopo la partita della domenica alla sera, la squadra si ritrova per cenare insieme in sede e va in ritiro. Questa prassi dovrebbe servire per cementare il gruppo e in effetti sembra dare i suoi frutti. La sera successiva al match con la Sampdoria, però, il clima è particolarmente euforico. I giocatori del Torino in fondo sono ragazzi e mentre si trovano a cena chiedono bonariamente al mister di lasciarli andare a casa da moglie e fidanzate come premio per la brillante vittoria sui blu cerchiati, come ricorda uno dei giocatori del Torino di allora, Aldo Agroppi. Però una volta a tavolo, a cena, forti di questa vittoria del pomeriggio, cominciammo a incalzare l'allenatore Edmondo Fabbri chiedendogli di andare a casa. Abbiamo giocato bene, è stata una bella vittoria, via signor Fabbri, ci mandi a casa con le famiglie, non ci faccia stare in ritiro. Fabbri accetta la richiesta dei ragazzi. È contento di loro, è contento del gruppo. È felice della sintonia ritrovata con Gigi Meroni. Quest'ultimo decide di invitare a casa sua alcuni compagni di squadra con mogli e fidanzate. Le donne in quel momento si trovano a cena al ristorante Urbani. Gigi Meroni e il compagno di squadra e amico Fabrizio Poletti, che ricorda quei momenti, decidono di chiamarle per avvisarle del cambio di programma. Le nostre signore quindi vanno da Urbani, che sarebbe quel ristorante che di solito andavamo sempre. E d'accordo che dopo finito di mangiare telefonavamo e ci incontravamo a casa sua. Cosa è successo? Veniamo fuori, cioè dalla sede telefoniamo, non risponde il ristorante. C'era quasi impossibile far la chiamata. Allora ci siamo diretti a casa sua, forse saranno davanti a casa a aspettarci. Davanti a casa non c'erano. Cosa facciamo? Ma andiamo a fare un'altra telefonata. Il telefono più comodo era il bar di fronte. Il bar di fronte è il bar Zambon. Meroni e Poletti attraversano per la prima volta Corso Re Umberto, entrano nel bar e telefonano al ristorante. Quando siamo andati lì, abbiamo fatto la telefonata, non abbiamo trovato ancora la possibilità di poter contattare con le nostre signore. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di attraversare la strada e a ritornare davanti a casa sua. Meroni e Poletti arrivano a metà del corso, poi scatta il verde per le macchine. I due allora si fermano sulla riga centrale per aspettare di poter attraversare, ma succede l'irreparabile. Una macchina passa troppo vicino ai due. Meroni e Poletti fanno un passo indietro, ma vengono colpiti da un'auto che sopraggiunge nel senso di marcia opposto, alle loro spalle. Non può evitarli. Poletti è colpito al polpaccio. Meroni è preso in pieno sulle gambe, sbalzato nell'altra corsia, travolto da un'altra auto che gli piomba addosso in quel momento. L'urto è tremendo. In una frazione di secondo, il mondo ribelle, vitale, prorompente di Gigi Meroni va in pezzi. Una tragica fatalità, uno scherzo ignobile del destino. A travolgerlo è Attilio Romero, un super tifoso del Torino e di Gigi Meroni che tentava di imitarlo nel look e nello spirito, che non si perdeva nemmeno una delle sue partite, che anni dopo sarebbe addirittura diventato presidente del Toro. La farfalla granata cessa il suo volo, tarpata proprio da uno dei tanti giovani cui aveva saputo trasmettere la sua immensa gioia di vivere. La corsa in ospedale è inutile. Ci sono attimi di grande concitazione. Il vialone torinese è intasato, l'ambulanza non può passare, il corpo di Meroni viene trasportato in ospedale a braccia. Quando arriva però la situazione è disperata. Il cuore batte ancora, ma l'asso del Toro ha le gambe e il bacino spezzati e un gravissimo trauma cranico. Tutta la società granata si precipita all'ospedale. Tra i primi ad arrivare c'è proprio Orfeo Pianelli, che ricorda così quel momento. Le prime notizie, come sempre, davano adito a speranze. Corremmo all'ospedale con Fabbri, il massaggiatore Colla, altri dirigenti. Restammo muti, impietriti di fronte ai volti aggrottati dei medici. Non c'era più nulla da fare. Fuori una folla di tifosi in silenzio, molti piangevano, ma come noi del resto. Pensai per un attimo che erano gli stessi che avevano protestato contro l'intenzione di cederlo. Pensai persino che se fosse passato alla Juventus sarebbe stato in trasferta, non avrebbe attraversato quel corso, sarebbe ancora vivo. Poco dopo arriva all'ospedale la fidanzata Cristiana, la donna che con lui aveva condiviso una struggente favola d'amore. Il giornalista Giampaolo Ormezzano, amico di Meroni e della ragazza, ricorda così quel terribile momento. Posso dire che sento ancora nell'orecchio l'urlo no, peraltro l'urlo atteso di Cristiana, quando apparve sulla porta che immetteva i locali del pronto soccorso. Noi eravamo in una sorta di saletta d'attesa, un medico allargò le braccia. Quel no di Cristiana c'era ancora proprio dentro. Meno di 20 anni dopo Superga, un'altra tragedia colpisce il Torino. Gigi Meroni scompare con tutta la vita e la carriera davanti, a solo 24 anni. Commuovono ancora oggi le immagini della disperazione del compagno d'attacco Nestor Combin, di Lido Vieri, all'ospedale, davanti all'incomprensibilità di una tragedia come quella. La domenica dopo, il Torino affronta, per un altro paradosso del destino, la Juventus, nel derby. Il presidente Orfeo Pianelli, con la morte di Gigi Meroni, ha perso ben più di un giocatore, ha perso quasi un figlio. Trova però la forza di ricaricare la squadra. Dobbiamo giocare per Gigi, dice ai suoi giocatori e al tecnico Edmondo Fabbri. Il Toro distrugge la Juventus in un memorabile selvaggio 4-0. Combin, indiavolato, quasi furioso, segna 3 gol, tutti di rabbia, di prepotenza, quasi volesse trovare un modo per capovolgere il destino. Il destino però, purtroppo, non si può ribaltare. Si può lottare, si può tornare a vincere, si può fare per Gigi. Lo sa bene Pianelli, il suo sogno era lo scudetto. Meroni era l'uomo giusto per arrivarci. Il presidente, dopo quella terribile scossa, ricomincia da capo, deciso a perseverare, a reagire. Così, 10 anni dopo, stagione 1975-1976, i Granata, dopo diverse stagioni tra le primissime del nostro calcio, si aggiudicano il tricolore, il 7° della storia, il 1° dopo Superga. Subito dopo il pareggio decisivo contro il Cesena, Orfeo Pianelli, che ha finalmente coronato il suo sogno, pronuncia una dedica tra le lacrime. Prima cosa che ho fatto, sono passato davanti alla lapide del povero Meroni, che in quel momento avrebbe potuto esserci anche lui. C'è chi giura che in quell'indimenticabile 16 maggio 1976 al Comunale, una farfalla, naturalmente di colore granata, si sia posata sulla traversa, subito dopo il fischio finale dell'arbitro. E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi